Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. Buongiorno a voi ciccioni. Io come? Non sono il terrore, sono la vostra salvezza. È improprio che tu lo chiami BCK Gianfranco, perché noi lo abbiamo sempre chiamato Frisco. Non so quanto pesasse prima, devo dire che adesso è un figurino. Però Oscar oggi non cigola più la sedia. Ma oggi non cigola più semplicemente perché sono sei in piedi. Numero uno! I cancellieri mi sembra, diciamo, un buon Cristo che non so dove l'abbiano ripeticato, sinceramente. Forse davanti al baralma mentre mangiamo dalla vattata. Rachele potrebbe essere la rappresentante del nuovo Partito Democratico, l'avevo detto. Guardi, io prima di diventare parlamentare ero una precaria, quindi la candidatura della Camera non si deve a nessuno. L'abrasione della scritta è una cosa che abbiamo, che è stata fatta in Italia in tanti posti. L'abrasione della sola scritta è giusta. A occhio, io penso che vinceranno i 5 Stelle. Non diciamo sciocchezza. Dai, insomma, Telese, sappiamo da che parte sta, dai. Come si dice a Palermo, ci vale tutti il servizio. In qualche modo qualcuno ci ha dato uno spunto. Se Oscar è il gatto, io potrei essere il cane. Reach out and touch faith. Eccoci qui di nuovo, buongiorno, 24 mattina con il ritmo assordante che scandisce questa giornata piena di grandi temi e ovviamente gli obelischi del ventennio, le veline colorate, gli ariani e le veline, come scrive sul Corriere della Sera Massimo Gramellini, il Movimento 5 Stelle, veramente c'è tanto da discutere, lo Ius Soli che se ne va, lo stupro, la confessione del secondo stupratore. Ma partiamo come sempre dal nostro fritto misto. Help, I need somebody. Just anybody. Forza il generale! Quelli del Movimento 5 Stelle mi hanno detto, generale, mi raccomando, tanti bene i nostri parlamentari. Sì, si dimettono e vengono da noi e le ritrattiamo bene. Ma se oggi loro non escono, io il primo che arresto sarà Di Maio, il primo che arresto sarà Di Battista, saranno tutti quelli del PD. La profezia del generale Pappalardo, generale dei carabinieri ma capo della rivolta, perché l'Italia è il paese degli ossimeri e dei contrari. Confermiamo la nostra volontà di andare avanti, di approvare la legge. Per noi è importante andare avanti. I numeri li avete? I numeri sono quelli del Senato. Io mi auguro di sì e lavoreremo per questo. Martina, il ministro che aveva detto noi tireremo dritto sullo Ius Soli, si è visto. Se i nostri iscritti vorranno individuare me come candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri per il Movimento 5 Stelle, ci sarò. Io sono di Napoli, Salvini era uno di quelli che diceva Vesuvio lavali col fuoco, quindi di affine veramente io non c'ho niente. Di Maio oggi nei guai per la rogna ovviamente si è determinata in Sicilia sui 5 Stelle. Ormai niente più mare, niente più montagna, andremo tutte per boschi. Allora, fratello, io quando ho visto la fotografia pensavo che fosse il fidanzato della Bosca, ho detto, guarda, invece poi dove è il fratello? Possiamo proporre per il prossimo Venezia un kilt con un bel venticello, sai che quel kilt non forza niente, così anche noi vediamo qualcosa. Vladimir Luxuria che si interessa al fratello della Boschi più che alla Boschi, ma ovviamente i gusti sono gusti, e io saluto così Mario Giordano, direttore del TG4, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ce n'è da divertirsi oggi? Abbastanza. Anche tu sei interessato come Luxuria al fratello della Boschi sui bicipiti scolpiti rivelati da Instagram? No, io preferisco la sorella di Belen. Ah, bella questa, è un gusto, una scelta difficile, controcorrente. Ognuno ha le sue cose. Allora, iniziamo sui grandi temi del giorno. Tu hai ovviamente idee molto diverse dalle mie, hai goduto per la decapitazione dello Ius Soli, di la verità. Assolutamente sì, ho goduto personalmente, ma ho goduto nel senso che penso che sia una cosa buona per il paese, che fosse una follia quella legge, quell'accelerazione su quella legge, quindi credo che sia bene per il paese, al di là della mia soddisfazione personale, insomma, vedere la difficoltà portare avanti una legge sbagliata. Mi dispiace per tanti ragazzi nati in Italia che sono sedicenni, quattordicenni, che sono nelle nostre scuole, che non potranno essere italiani. Io non ho mai capito. Non è vero che non potranno essere italiani, Luca, non è vero che potranno essere italiani. Non nei tempi che vogliono italiani loro. A 18 anni, non nei tempi che vogliono loro. La cittadinanza è una cosa che si conquista, non è che non si possa avere oggi, è stata venduta anche in modo sbagliato, non è che chi ha oggi nelle scuole non ha diritti, non ha diritto alla scuola, alla sanità, non ci mancherebbe altro, chi è qua ha diritto a tutte le cose, ha diritto di diventare cittadino italiano secondo delle regole che sono già oggi, mi sembra, sufficientemente permissive, in modo che a 18 anni uno diventa cittadino. E se fosse tuo figlio che dovesse aspettare fino a 18 anni, lo diresti con la stessa leggerezza? Ma io sono italiano, io sono nato in Italia, se io voglio diventare cittadino anche loro americano, sono nati in Italia, anche sì, molti di questi bambini sono nati in Italia. Sì, io sono nato in Italia, da famiglia italiana, con valori italiani, cresciuto nel valore della cittadinanza italiana. Se io voglio diventare cittadino dell'Australia domani, non è che divento automatica, che vado là, prendo un biglietto per l'Australia, vado con mia moglie, faccio nascere un bambino a Sydney e quel bambino automaticamente australiano, o sbaglio? Ma in America è così. No. In America è così, Ius Soli, in America proprio testuale, se è nato ha la cittadinanza, come è noto. In Europa nel 90% dei paesi non è così, come sai benissimo. Detto questo, uno Stato ha tutto il diritto di regolarsi e di dare la cittadinanza a chi ha fatto un percorso sufficientemente approfondito per diventare cittadino italiano. Mi sembra che in questo momento nel paese, con tutto quello che c'è, non fosse l'urgenza quella di approvare una legge come quella sullo Ius Soli. Ora, una sublime collisione fra la cronaca leggera e quella, come dire, importante della politica. Micaela Neazze Silva, la tua vicina di lavoro, di ufficio. Dico, sai chi è? La velina, la famosa velina. La velina, sì, la velina, no, pensavo che me la facessi sentire. No, scusa. Vedere no, perché purtroppo siamo alla radio. Non si può vedere, però un bellissimo ciuffo, come dire, che ha suscitato rabbia, dicendo come questo ha i capelli biondi. Ma quelle sono stupidità, ecco, quelle sono le cretinerie, quelle siamo più sui webeti, sulla vecchia sempre attuale campagna sui cretini del web. Ti faccio sentire la sigla di Striscio, così entriamo nel colore. Tu pensi che siano solo dei cretini del web? Non è un segnale di qualcosa? No, non è un segnale di niente, si sta cercando di far passare questo paese per razzista, cosa che assolutamente non è, questo non è un paese, non è un paese razzista, è un paese in cui però con qualche razzista, perché mi ricordo, a me ha colpito questo, quando, ti ricordi, vinse Danny Mendes, sì, stiamo parlando del lontano 1996, Italia. La prima Miss Italia di colore, il clima con i parametri di oggi era quasi buonista, cioè tutti lo festeggiarono come un evento, non ci fu neanche uno scuotere di testa. Sì, ma è successo qualcosa, Luca, nel frattempo? È successo qualcosa? È successo che questo paese ha avuto una immigrazione incontrollata, almeno fino a quando Minniti non ha provato un mese fa a metterci una pezza, completamente non gestita. In un momento in cui il paese era nella più grande crisi che si ricordi e quindi le famiglie italiane, i cittadini italiani erano in difficoltà, si è accettato un'immigrazione incontrollata E quindi questo non è che ha fatto diventare l'Italia un paese razzista, ma ha fatto diventare un paese che cerca di difendere quello che è le sue radici, quello che è la sua civiltà, è semplicemente questo. È ovvio che si era più buoniti, era tutto un clima diverso, però non è che gli italiani sono razzisti, è che si è creata una situazione di difficoltà, sbattendo il problema dell'immigrazione. Quante volte l'abbiamo detto, Luca? Quante volte abbiamo raccontato che far entrare masse di persone in modo incontrollato e sbattere non ai parioli o nel centro delle città, ma nelle periferie delle città, nelle zone già più in difficoltà, avrebbe inevitabilmente creato delle tensioni sociali. Anche però nel 96 non era un idillio. Dopodiché oggi proprio una ricerca di cui parleremo, di Diamanti su Repubblica, conferma quello che dici con i dati di una ricerca che dice che aumenta la paura, aumenta il senso di difficoltà e di percezione. Ma è la paura, 349, scusa, 238-6666 per intervenire con i vostri sms, 800-24-0024, ne parleremo ovviamente più avanti nello spazio con le vostre telefonate. Prego Mario. No, dicevo, la paura non è razzismo. Ci sono sentimenti di paura e questo fa degenerare in sentimenti di rabbia spesso incontrollata, ma non è razzismo. Razzismo è una cosa precisa, bisogna dare un senso alle parole. Cioè non è razzismo, è rabbia. E poi, dopodiché, nel 96 la situazione era ben diversa. Noi venivamo da 3 anni di crescita grandissima. Dopo la svalutazione del 92 c'è stato un grande periodo di crescita nel 96. Era un paese, un'Europa completamente diversa, che guardava al futuro con prospettive completamente diverse rispetto a quelle che ci sono oggi. Allora, divisi anche i nostri ascoltatori, ma quale Ius Soli, sei pazzo, questo è riferito a me, Giampiero, la follia è svegliarsi e sentire la voce di questa persona, questo saresti tu, che per sua fortuna è nato in Italia e non in Somalia. Esiste anche questo nella vita. Assolutamente sì, certo, io sono nato in Italia, io penso che noi dobbiamo come uomini, come persone, io anche chi crede come me, anche come cristiano, prendersi a cuore le cose di tutto il mondo, ma come Stato uno deve avere come primo noi facciamo uno Stato per difendere lo Stato e i cittadini di quello Stato, le persone si mettono insieme, creano uno Stato per difendere quello Stato e per darsi delle regole, persino il Papa l'ha detto l'altro giorno. 5 argomenti in un pugno di minuti, ma questa è la capacità dialettica di Mario Giordano. Ci fermiamo per il traffico e torniamo con lui fra poco. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta "24 Mattino". I già svegli. Pronto, sono sveglio perché non essendo un politico devo lavorare. E dato che credo all'assioma che chi dorme non prende pesci, agisco di conseguenza. Buongiorno. Ciao, Radio 24, io sono sempre attaccato a Radio 24. Beh, io mi sveglio presto perché superata una certa età non riesce a fare altrimenti, caro. Arrivederci a Milano. Sono sveglia perché mi sveglio sempre a quest'ora e mi piace svegliarmi così. Comunque ti chiamo per dirti di non eccitare quel pseudo intellettuale di Michele Serra, è della mia generazione e abbiamo tanto sbagliato, mi piaceva. Thank you. rieccoci, 24 mattino, al telefono Mario Giordano, adesso ho un nuovo ospite, acerbo per discutere di fascismo, ma non il ministro del ventennio, buonanima, ma Maurizio Acerbo, pensate, nuovo segretario di Rifondazione Comunista, che ovviamente è totalmente opposte a quelle di Giordano. Ma prima una battuta a Giordano, ne parleremo ovviamente più avanti, ma sulla questione della Sicilia del Movimento 5 Stelle. Che impressione hai di quel pasticcio in cui la candidatura viene sospesa, salta per un problema delle regionarie? Intanto che abbiamo rivisto una scena già vista a Genova, e secondo che manifesta la grande difficoltà che è evidente, che è un po' di tutti i partiti nella scelta dei candidati. È difficile scegliere candidati, cioè è difficile uscire dalla maledizione della scelta dall'alto, e questo purtroppo è un altro caso clamoroso dopo quello di Genova. Quanto spazio hai dato nel tuo TG all'iPhone decimo? L'iPhone decimo, ne ho fatto un titolo, sì. Ah, no, scusami, l'iPhone decimo, no, io ho fatto un titolo, scusami, sull'iPhone a scuola, l'iPhone decimo zero, niente, non ne ho parlato. Ah no, allora parliamo dell'iPhone a scuola. Ho fatto l'iPhone a scuola, che invece mi sembra un'emerita sciocchezza, ancora ci sono proposta del ministro Fedeli, esatto, fresca di ieri. Ci sono difficoltà a portare i professori sulle cattedre, ci sono ancora, si riparte ancora una volta, nonostante tutte le promesse dell'estate, nonostante le promesse di assunzione, con 85.000 supplenti, e quindi con i prevedibili disguidi che ci saranno, e si pensa di portare lo smartphone in classe, in aula. A me sembra una follia totale. Allora, nuovo cambio di tema, entriamo in questo dibattito. La voce del ministro La Russa, dell'ex ministro, ci porta nel dibattito infuocato di Montecitorio proprio ieri sulla legge contestatissima dai 5 Stelle, ma anche dalla Lega, ma anche da tanti intellettuali progressisti, fra cui, per dire, Luciano Canfora. Ci porta sulla legge che vieta la propaganda e l'apologia del fascismo. Questa legge non vieta soltanto il parlare, ma vieta anche la gestualità. Da ora in poi state attenti ad alzare la mano oltre la spalla, state attenti a mettere le mani sui fianchi, state attenti a camminare con la gamba alzata orizzontalmente. Quando camminate, state attenti ad accentuare il mento. Se voi accentuate il mento, potete essere passibili di 2 anni di galera, perché l'accentuare il mento richiama certamente quel mostro che fu Benito Mussolini. Vergogna! Mario Giordano, hai mai accentuato il mento? No, sarei ridicolo. Posso dire però che tutto questo dibattito mi sembra surreale, mi sembra completamente surreale. È l'ultima legge forse che sarà votato dal centro-sinistra in questa legislatura? Sì, è la prima di grande discussione del Parlamento che riapre dopo le lunghe ferie, riapre, non faremo la legge su che sarebbe intervenuta in modo sacrosanto sui vitalizi, non si farà, sulla legge elettorale non se ne parla più, però abbiamo spezzato le reni all'obelisco con la scritta Dux, evviva! Perché è un riferimento alla mitica esternazione di Fiano, fatta proprio da questi microfoni, poi peraltro, sì. Bradere! Allora, Acerbo, per sentire un parere diverso, Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, convinca Giordano che invece è giusto. Io, fra l'altro, lo sapete, sono di sinistra, ma credo che qui questa legge metta in discussione il tema della libertà individuale e quindi sia un grave errore. Ma sentiamo Acerbo. Ma credo che sia impossibile per me convincere Mario Giordano, tantomeno non dispero La Russa, proprio credo che sia davvero difficile. Posso però ricordare che Giacomo Matteotti diceva che il fascismo non è un'opinione come le altre, è un crimine. In questo paese c'è una recrudescenza di organizzazioni neofasciste. Penso che la legge forse non è scritta benissimo, ma non mi sembra un grave attentato alla libertà di pensiero il sanzionare il fatto che si vendano bottiglie con l'immagine di Hitler nei nostri autogrill, o che ci sia gente che sfila facendo il saluto romano, il passo dell'oca, e di solito non fa solo questo, perché organizzazioni neofasciste sono protagoniste di aggressioni. Però Matteotti, in tutta Italia, di cui si sì. parla molto molto poco, molto molto poco. Però Matteotti lo diceva durante un regime, lo diceva mentre c'era libertà conculcata. Sono stati i costituenti che hanno creato una dodicesima disposizione transitoria che spiegava a che condizioni i fascisti potevano essere nell'Italia repubblicana, vivere e addirittura presentarsi alle elezioni. Ma voglio sentire Giordano. Ma io credo che mettersi su questo piano stamattina, già qualcuno diceva, allora adesso abbattiamo anche la statua di Lenin a Cavriago, abbattiamo, togliamo le... E tu saresti contrario, la difenderesti la statua di Lenin? Mi sembra davvero, come dicevo prima, un divario, cioè, se ci sono delle aggressioni, come dice Acerbo, vanno punite con la massima severità, sia che queste siano fatte in nome del fascismo, del comunismo, del venusianesimo, qualsiasi, se uno aggredisce un anno, aggredisce. Io non credo che in questo paese, in questo momento, ci sia un rigurgito di fascismo, come non credo ci sia un rigurgito di razzismo, credo che ci siano dei problemi reali, enormi, ci sia un problema di rilanciare un paese, un'economia che è ancora all'ultimo posto, c'è un problema di disoccupazione, e mi fa sinceramente ridere che in Parlamento si perda un tempo a discutere se bisogna graffignare o no la scritta Dux sull'obelisco. Mi sembra veramente un altro elemento di distanza totale. Il vero problema che noi abbiamo oggi è la distanza totale del Parlamento dal Paese, e questa discussione surreale che abbiamo sentito ieri va ancora ad aumentare questa distanza. Io credo che nessuna famiglia abbia come primo problema alla sera quella della scritta Dux sull'obelisco, e mi sembra che questo vada ad aumentare quella distanza che, ripeto, per me è il vero, grande, enorme problema in questo momento del paese, che alimenta poi la sfiducia nella politica, di cui poi tutti si lagnano. Oh, perché la gente, c'è l'antipolitica, c'è l'antipolitica, ma per forza state discutendo di cose che sono lontane da qualsiasi famiglia, da qualsiasi problema reale, aumenta il senso di distanza. Allora, un messaggio che ci dà l'idea, è come la radio fotografa in diretta, autostrada 4, sto scendo verso Bergamo, c'è una torre totalmente fascista, scritte simboli, quindi da abbattere, ma dai, Acerbo, in una battuta, che cosa faresti di questa torre? Non facciamo confusione, personalmente mi sono battuto, e basta usare Google per accorgersene, per difendere, addirittura far vincolare architetture risalente al periodo del ventennio. Quindi lei non abbraderebbe la scritta? Che avrebbero un valore storico architettonico, questo è un tema. Quindi lei non cancellerebbe la scritta Dux dall'obelisco? La mancata applicazione in Italia della legge Scelba di attuazione della dodicesima disposizione transitoria finale della Costituzione e della legge Mancino. Bene, no, in una battuta, la cancellerebbe la scritta Dux dall'obelisco? So che è difficile per Mario Giordano, ma è un sì o no? Problema. No, io non ho problemi con te. Bene, mi devo solo fermare, è tassativo. A fra poco.